mio c'è ancora la porta FireWire, figurati, cosa che nei computer è sparita già da un po' di tempo. Ah, tu pensa, quello che avevo io c'era la slot dove tu puoi, c'è un inserivi questa schedina grande per le porte USB. Sì, ce l'ho anch'io. C'è il doppio slot della PCMCIA, come ti si chiama, boh, una cosa del genere, ho capito, sì. Ho già avuto una marea di computer, una marea ne ho avuto. Guarda, ce l'ho da, me l'avevano regalato un sacco di anni fa. C'aveva un problema alla tastiera, ho cambiato la tastiera. Dopo un paio d'anni, mentre tornavo da una serata, ha preso un colpo il display, si è spaccato, ho cambiato il display. Poi cosa c'è Giambadio? Vabbè, questo nel corso degli anni, ho cambiato, mi si era, cosa, avevo cambiato il processore, ho messo un processore di uno step un po' più potente, vabbè, ho cambiato tutte e due le RAM, e niente, adesso mi manca l'SSD, per quello che, per l'uso che ne faccio ce n'è per i polsi, cioè, tanto ultimamente lo stavo usando come software per fare programmi audio per quando facevo le serate al vivo, beh certo, no, io lo uso così da battaglia, no? Lo uso, diciamo, per controllarmi le cose che mi servono col telefono. Il telefono, vabbè, lo stesso, li trovo, non è che non li trovo, il telefono, diciamo, abbastanza veloce, però computer è computer. Guarda, il vantaggio di questa portatile è che riesco a trovare tutto, figurati, vendono i tastini singoli delle lettere della tastiera, già ci ha paduto. Cioè, trovi dai tastini alle antennine del wifi interno, batteria, alimentatori, trovi assolutamente tutto, nonostante ci siamo passati tutti questi anni, capito? Che modello è? HP 6510B. HP 6510B. Vabbè, io di pezzi HP ne ho, qualcosa già ce l'ho, anche schede di wifi, batterie, qualche batteria, cioè non so se va bene, boh. Poi vabbè, qualche monitor, quanto è da 16 il monitor? No, dovrebbe essere, adesso non mi ricordo se è da 14.8 o da 15.4. Non da 16, volevo dire da 14, 15.6 oppure 15.4. Guarda, non mi ricordo adesso, dovrebbe essere o da 14.8 o da 15.2, non me la metto. Comunque non supera i 15. C'ho anche qualche pannello LCD, avrò qualche tastiera anche di quello, tanto più o meno sono così. Tastiere ne avrò una ventina. Io figurati, ne avevo praticamente comprato uno su eBay per pezzi di ricambio, praticamente era bollito, aveva la scheda madre fusa, però mi sono tenuto le cover dell'LCD e poi le cover del corpo del computer, mi sono conservato tutte le plastiche, dai, ho sciacallato il lettore masterizzatore di DVD e poi mi sono preso altre cose che funzionavano, quindi ancora qualche ricambio ce l'ho di quello lì. Cazzo, via. Pezzaria, sei pezzi, vabbè, ormai ne ho buttato. Ci ho buttato due computer, un Acer che accendeva e tutto, poi sta giù un pad perché non ci voleva hard disk, quelli a punta, da quelli che si chiamano. Poi la RAM, io ne ho RAM, però quelle che c'erano non andavano bene, sono un altro modello ancora. Sono rotto le balle, nuovo mio, tu vedi, nuovo, tenuto benissimo, sta giù un pad. Guarda, ho avuto, conosco un amico, cazzo, che ne ha avuto tre di Acer e tutti e tre gli hanno dato sempre problemi. Sarà stato un caso, però dirti la verità, non mi hanno mai ispirato, dai. Non... Poi la testimonianza l'ha avuta da questo mio amico che ne ha sciabato tre nel corso degli anni e si è sempre trovato male. Io c'ho un lacere che ho tanti anni e è un bombo. Anche il mio. Ti posso dire un'altra cosa, gli HP sono... Secondo me sono... Io ho un HP lo stesso, c'ho un problema la scheda video. Allora tu lo accendi, ti fa schermata brutta, no? Con colori brutti. Poi una volta che si avvia funziona, perché funziona. Comunque c'è la scheda video danneggiata. Per quanto riguarda l'Acer, io ho tanti anni, me l'hanno regalato una mia amica dalla Germania. E ti posso garantire che è un bisciù. Ce l'ho anche io l'Acer, vero? Allora, un attimino ve lascio qua gli occhiali, mi stanno bruciando gli occhi. Senza occhiali io mi sa che è un casino, da vicino vedo più. Luca, lo fa anche a me la sera, lo sai, mi bruciano gli occhi. Cazzo, con Dio riattendimi, per carità, avanti già, c'è ne abbiamo fatta, riprendo un attimo. Secondo me non vanno bene gli occhiali, magari devi mettere qualche gradazione in più. Adesso devo andare anche a farmi la visita, perché mi stanno bruciando, quando guardo il televisore mi brucia. Ciao già. Ciao già. Io vabbè, li uso quando ho di quelli da lettura, quelli leggeri, ma li uso solo quando devo usare il telefono, insomma, per altre cose, cerco di metterli il meno possibile. No, ritornare al computer, sicuramente sarà stato un caso, la storia dell'Acer, però questo mio amico tre ne ha pigliato e tre proprio gli hanno sempre creato problemi. Ma praticamente anche io c'ho l'Acer. C'ho di quelli piccolini, poco più di un tablet grande. Ma va sempre bene, Luca me l'ha anche ampliato, mi ha messo una RAM in più e sta andando bene, dai, va bene. Vabbè, dai, io vi saluto che vado a cena già. Salutami Luca, salutami tutti gli altri amici, ci sentiamo, buona serata. Buona carica, buona carica. Andava bene. A parte Luca, Marco è sparito, sono spariti tutti, dai. E casomai ci risentiamo più tardi. Oh, io sono rientrato adesso. Mangiate, cane mangiatore. C'era un po' di fame, dai. Ne hai mangiato un pizzaro? No, la pizza la mangio domani, ho mangiato delle pennette con i gamberetti e dei bastoncini di pesce fritto, sono buoni. Buoni, piacciono anche a me, dai. Solo che la roba fritta, il capo, bisogna farla in forno perché i fritti fanno male. Non mangiamo troppo le robe fritte, anche la carne panata a me mi piace, però evito di farla perché è fritta. Ero da me che non li mangiavo questi bastoncini, già non ammazzano nessuno. Ah, no, quello no. Sono anche un bel buoni, quelli fritti ci sono buoni. Sì, poi ci sono quelli economici, una volta li avevo presi, il pacco, costavano poco, ma come li ho presi questi ragionampati? Uno schifo, chissà cosa cappesso era. E poi si fanno, non diventano croccanti, rimangono molti molti, mamma mia. No! Si sciolgono, queste cose c'è anche l'impanatura, questi raffreddati sono buoni, cioè ti mangi anche solo l'impanatura è buona. E poi non hanno di quelle lische, non deve essere, ci mettono anche le lische macinate, quella cosa nera che si vede nel bastoncino in certi quelli economici, infatti mai più, spendi un po' di più però almeno mangi cosa più sana. Sì, è vero. Mia suocera addirittura anche a quelli fritti si ritoglieva l'impanatura e gliela rifaceva lì. Meglio ancora così. Ma ti dico già, nel complesso già sono buoni, dai. Poi ci sono un sacco di marche bastarde che devi stare attento. Certe cose varie di economiche sono buone, altre cose fanno schifo veramente. È vero, è vero. Per dire, qua da Vitali, vicino a casa, è un discount, no, Vitali, è un discount di Donna Isa. Praticamente c'è sia Nonna Isa che Ditali, c'è un corridoio che tu vai da Ditali e arrivi a Nonna Isa e io compro sia da Ditali che da Nonna Isa, ma da Ditali ci sono per dire gli yogurt che sono buonissimi, la mozzarella è buona, i latticini sono tutti buoni. Ma sono un po' più cari della media, la roba di questi Cobb, di questi negozi, quella catena di lì, Corte Santa Maria, i prezzi sono più alti degli altri, anche la piazzetta. Solitamente io andavo dallo Spin, quando compravo certe cose dallo Spin, poi la carne la compro dalla macelleria, perché carne non è compro nei supermercati, perché so come funziona. No, io non ci vado dallo Spin, raramente, proprio io vado normalmente quando c'è il coronavirus la spesa la faccio sempre al Carrefour, roba buona, costa dei prezzi modici diciamo, e ho la Conad, qualche volta la Lidl, però Eurospin rarissimamente, qui puoi controllare le conserve, quelle cose di lì, tipo carciofini, quelle cose con le cipolline, costano meno degli altri. L'MD è meglio dell'Eurospin, che costa poco, però ma non può comprare Eurospin se va a comprare biscotti, merendine, mamma mia, ma è più. Eppure registrato, eppure io ho preso dei biscotti che sono veramente buoni, si chiamano granigli, li uso per la colazione, sono veramente buoni, a parte Riccardo. E io invece stavo parlando la Spagna in banda laterale poco fa. Lo vedi Riccardino, in un paio di settimane è diventato un CB esperto, sta facendo collegamenti, stazione migliorata, eccetera, eccetera. Sono contento per te Riccardino, la passione ti sta prendendo sempre di più e piano piano ti farà una stazione di un certo pregio, sempre meglio. Dai, stai già iniziando con poco, però c'hai già tante cose. Con che antenna l'hai collegato Riccardino? Adesso sei con la Gran Prix, Riccardo? Ho detto adesso sei con la Gran Prix. Cavagava. Santiago del Mezzo, dai, arrivi. Quasi 9, sì. Va bene, non stare a toccare affatto. Quando vedi che funziona bene, lascia tutto così e basta. Visto che è collegato anche Malaga, è una soddisfazione, dai. Il primo collegamento che fai fuori. Anche io l'altro giorno ho collegato il vizio. Sì, ma magari l'ha collegata in banda radioamatoriale. Sì, sì, radioamatoriale. Gianni, no, io stavo a mangiare, io stavo salutando, poi c'è stato il video per entrare. A parte Roberto, riprendi tu e poi fai girare, io sto andando a pappare, dai. Ciao Gianni, buona carica, ben rientrato Riccardo, c'è anche il doppio, mi doppio rumore, il profeta, vanni Gianni o profeta. Ehi, sì, l'ho salutato poco fa Gianni, buona carica, anche io 5 minuti poi stacco. Stacco un po', casomai si riprende più tardi se c'è qualcuno. No vabbè, io oggi la radio l'ho accesa tardi, a parte l'altro giorno che ho parlato con la Spagna anch'io. I portoghesi arrivano molto forti, stanno arrivando molto forti in questi giorni, soprattutto dal 30 in poi, che sono i canali più o meno che usano loro, però in banda laterale in LSB, la maggior parte sono in LSB, ho provato a fare una chiamata, veloce, ma il segnale non era stabile. Per cui ho lasciato perdere. No, ieri c'era sul 46, c'era il Portogallo, 10 km da Porto, questo, non mi ricordo come si chiama, Marius, un nome del genere. stava spingendo 400 watt, c'aveva un'antenna con un Kenwood, questo amplificatore che non conosco, 787, è un'antenna Stellar c'aveva, e ascoltava 9.10, io ascoltavo 9.30 in certi passaggi, è arrivato, ma siamo stati un po' parlando, ha iniziato a cantare, ci ha cantato l'italiano di cosa, di Toto Cutugno, adesso vi faccio sentire, un po' si arrangiava con l'italiano, dai. Poi mezzo spagnolo riuscivamo a farci capire. Ci ha raccontato tutto quello che mangia, come la faceva, carne di capra, loro dice carne di porco, carne di bue, carne di cavallo con patate e quello. Mi ha fatto troppo ridere quando si è messo a cantare, una bella voce mi. Poi era mezzo. Ah, e poi mette un quarto di vino, poi dopo che prendeva la carne. Mi ha fatto troppo ridere, mi ha detto guarda sei più bravo dell'originale questa canzone che hai fatto, una bella voce. L'ho sentito mesi fa, mi è capitato di sentirlo svariati mesi fa e ho capito di chi stai parlando, sì, curioso dai, particolare, strano che oggi il bulldozer non si sia fatto sentire, dai. No, ma il Portogallo diciamo non è raro, la Spagna è frequente perché anche d'inverno la colleghi spesso tutte le isole Canarie, le Baleari, eccetera. Io il collegamento più lontano che ho fatto, che è durato tanto, di notte qualche anno fa, avevo collegato la Patagonia, giù vicino alla Terra del Fuoco, un faro in mezzo al mare, era più vicino al Polo Sud che alla cosa, che alla come si chiama, la terraferma. E mi ha detto che era dentro un faro, c'aveva una direttiva con 3 kW, puntata a nord, ha detto, e lo prendevo molto forte, arrivava forte, la radio 5, parlava abbastanza bene l'italiano, ci arrangevamo un po' d'inglese e ci siamo arrangiati. Io te l'appoggio. Cos'è? Io te l'appoggio. Ammi, c'era anche cosa, Antonello Pompugno. Come si chiamava quello che cantava, Antonello? Quello è Mario. Lasciatevi cantare. Pisello in mano. Che era di nome? Come si chiamava Antonio? Mario si chiama di nome. È sul canale 47, sono adesso. Sta parlando con un tipo. Comunque lui è a costa atlantica, 20 km da Porto. Che da adesso sei troppo forte, Antonio, stai distorcendo. Perché sono attaccato. Sto pompando con l'ovinale, sto pompando. Adesso distaccato, sono liscio. Ma sei sempre forte del radio. Ok, c'è Riccardino e Gianni il Brofetta. Avanti Gianni, per poi far girare in casa. Ehi, Gianni, sì, adesso sei un po' più ascoltabile. Appena sei entrato è ovviamente tutto bu, non si comprende nulla. Bene, sì, ho ritornando al discorso di prima, svariati mesi fa l'avevo sentito, forse ci ho parlato anche con Mario, sì, l'avevo sentito anche cantare. bene, dai ragazzi, io faccio un po' di pausa, dai, mi stacco un po' dalla radio, casomai ci sentiamo dopo, ok? Avanti, Ale. Va bene Gianni, ci sentiamo dopo, allora stai bene. Ma dopo cena, tanto se non c'era, a mangiarti bene un panino, stiamo ingrassando come maiali, speriamo che passi qui. Questo quattro veloce, così me ne vado in giro tutti i giorni, me ne vado a passeggiare a piedi. Ma che radio è Antonio qua? Come che radio è? Perché? La 87 sto usando, con microfono Saverza. Ah, infatti ero attaccato, infatti ho già attaccato la cosa, pensavo ci avessi un altro tipo di radio. No, c'ho l'ideale, c'ho lo spiri, mi guarda, così è liscio e così sono attaccato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da 9.50 passi a 9 più 60 e oltre, fondo scala, dai. Quanto ne aveva quel giocattolo? Senti, quanto sono? Dovrebbe essere 10 watt e 15 ingresso. Figurati che l'ago va a fondo scala qua, che è lineare. Aspetta. Ecco fatto. Mi sa che la voce entra la valvola, anzi dentro la valvola. Quanto ne hai? Su un centinaio di più? Un centinaio? Dovrebbe essere. Aspetta un attimo il caffè, se non mi brinca. Sì, ecco, ok. Vai Riccardo. Thank you. ed è semplice, poi tanto devi solo salutare, non è che devi fare la discussione, li saluti, le solite fesserie che si dicono e basta. L'inglese, poi se sai parlare inglese la maggior parte delle persone riescono a farsi capire, dai, assolutamente zero io invece di inglese, tanto meno tedesco, proprio zero assoluto, meno inglese, scusa, francese, tedesco zero, a parte che i francesi non mi piace, quando ti colleghi sono persone antipatiche, quasi mai ti fanno entrare, i tedeschi qualche volta ti fanno entrare, ma molte volte parlano tra di loro e non vogliono essere disturbati. Al contrario degli spagnoli, il Belgio molte volte, tantissime volte è collegato, ci sono tanti italiani che parlano e sanno parlare, oppure figli di immigrati che sanno parlare anche l'italiano, qualche volta l'Inghilterra collegato, non parliamo poi tutti i paesi baltici, Romania, Serbia, tutti quelli li ho fatti tantissime volte, il Brasile ho fatto, gli Stati Uniti, poi cos'è che ho collegato, la Russia tante volte è capitato, e basta, non mi viene altre cose, l'Austria sì, l'Olanda e la Svezia, mentre non ho mai fatto l'Australia, vabbè, quelli sono casi assolutamente rari, collegare quei continenti lì. Ma con questa radio i segnali sono diversi da quelle altre che utilizzavi, che segnale mi dai con quella? Diciamo è più precisa, dai, perché le altre mi dicevi 9 più 30, dice, arrivavano tutti a fondo scala, infatti mi sembrava un po' strano, probabilmente quello smitter che avevi in quella radio era un pochettino esagerato, dai, è più credibile quando mi dici 9 più 5, dai. America non è facile, è abbastanza rara e non è detto che ti facciano entrare, perché molte volte tu li senti, loro usano potenze esagerate e magari loro neanche ti riescono a sentire, tu magari li senti, Santiago 5, 6, 7, anche di più, però stanno usando magari 3-4 kW di potenza. Aspetta, c'è stato qualcuno che voleva entrare, avanti, chi è? Non lo so, dimmi una cosa, adesso ti voglio dire qualcos'altro, Riccardo, chi sono i segnali, come ti arrivano gli altri, per dire, rispetto a me, nella tua zona, Riccardo? Chi sono i più forti che ti arrivano? Sì, ci sono io e Riccardino, cosa è andato un attimino a mangiare, non so a fare che cosa, sia Gianni che l'altro Gianni. Ah, ho capito, io ho mangiato una cosa veloce, non avevo manco fame, perché mi sono mangiato un pezzo di gelato, aspetta che intanto questo qua mi gira il pomello, mi faccio fare così, va, lo gira, il cavo da microfono, e niente, da. Se no poi magari stanotte mi viene fame. Sono sicuro che quello che mi ho mangiato poco fa mi fa dormire stanotte. Ehi, è importante vedere sempre l'appetito, è brutto quando uno non ha appetito e che ci sia anche la roba da mangiare. Riccardo, probabilmente quello che ti arriva più forte di tutti è Claudio, come segnale. Lo saprà lui, dai, io non entro in merito. E Eugenio, come la sposta a Porto Torres, ci riesce a tirarlo fuori? Diciamo, quelli più forti sono Claudio, io e Luca, così è, e doppio rumo. E anche Alessio dovrebbe spingere parecchio, e penso anche Giovanni Bracco. Come ti arriva Giovanni Bracco? Ok, vabbè, lui c'ha una radio con microfono normale. Marco, tu ci sei ancora? Aspetta, se non faccio brutta figura come segnale. Riccardi, guarda che bello adesso. 1, 2, 3, 4, 5, guarda come pompa. Sempre poco, e dai, allora, tanto vale. Ecco qua. Ma con il secondo, vuoi che ti faccia squillare il telefono? Ciao Lu. Ma una domanda, Luca, ma quando c'era quella, come si chiama, Falcone, Marco Condor c'era già? Sì, guarda Robè, io sono estate 84, chi ho beccato col portatile alla prima volta che sono entrato in radio? Falcone. Aspettate, c'è qualcuno che chiama lontano, avanti chi chiama? Attenzione, chi chiama l'Italia, avanti. Vabbè, peggio per lui, era forte, adesso probabilmente non si sente. Quindi ci sei da parecchio tu in frequenza, Marco, ma è continuativamente o alternativamente? Allora, io me ne gioco fuggito dal 94 che sono sparito, perché la graffetta nostra di Gio Vincelli era sparita, si era smembrata. Comunque, uno che c'è ininterrottamente, probabilmente l'unico che non l'ha mai mollato è Coso, come si chiama? Giulio. Giulio c'è dal 73, mi sembra che entri, lui la licenza c'è dal 73, la concessione, dice che c'è sempre. Poco, magari in certi momenti perché c'era poca gente, anche Gio Maria, uno di quegli storici sono loro in queste frequenze. Eia. Guarda, io sono rientrato nel 2010, ho fatto capolino, ho visto due gatti proprio, poi un po' si è svegliata, hanno cercato di trainare un po' di gente, quindi ricordati, Smes è entrato nel 84, nel 94 è sparito, o giù di lì, è rientrato nel 2010. Invece in quel momento di buio, proprio tutto accantonato e tutto messo negli armadi. Adelante, compagno, ti scucci da Italia che va a chiamare, adelante. Your nation please, QSL, qua Roberto, città di Sassari, nord di Sardegna, QSL. Il tuo segnalito è del 7, radio del 4, e la tua nazione, cos'è, Spagna o che cosa, o Portogallo? Ok, ma le condizioni sono un apparecchio della Kenwood 440, MC60 microfonia, antenna 5 ottavo della Mantova 1. Ti rilancio l'amico Marco, se ti ascoltato, e poi Luca e Riccardo. Avanti Marco. Io cedo il passo. Marco, ora vota. Luca, l'hai ascoltato voi? Hola. Questo è lo spagnolo. Parla. Hola Sico, vamos a ver si va escuchando la Italia que va llamando adelante. Atento mi hermano de España, vamos a ver si va escuchando la Italia. Roberto. Anto, aspe, Natalino. Sí. Asco, me estaba chiedendo, aspe. Te ha risposto Lu. Hola mi hermano, vamos a ver si va escuchando la Italia, adelante. Aquí el operador Lima Uniform Charlie Alfa, la ciudad de Sassari, nord Sardegna, adelante. Molto amplificato, Santiago 7 qua, radio 4, però si porta presso il QRM. Natali, dimmi. Ok, questo è molto forte questo passaggio, compagno. Santiago 8, radio 5. Ok, purtroppo mucho USB questo passaggio, compagno. QSL, quanti watt in antenna? QSL, sparito, dai, non si sente più. Natali, cosa stavi dicendo? Forza, un interrogativo, Robert. Dimmi tu. Volevo sapere se quelli 8001 che stavi dicendo tu sono di vecchia generazione o nuova. Perché quelli nuovi non servono a un tubo, ma si stavano dicendo. Allora, l'apparecchio non è nuovissimo nel senso di adesso, c'era qualche anno, almeno ci sono una decina di anni minimo, secondo me, con la radio. E ti posso dire chi è che ha detto che non servono a niente gli 8001? Con i componenti SMT, perché ne hanno fatto due generazioni. Se io di più prendo quello di vecchia generazione con i componenti normali, capito? Perché quelli dice che andavano bene. Vabbè, posso? Prego, prego. Comunque quello che c'ha lui è di vecchia generazione, sicuramente ce l'avrà 15 anni, Natali. Quello lì ti posso garantire che è l'evoluzione dell'Ara 48 completo, però. Avanti, Marco. Ehi, io qualcosa a Natalino gliel'avevo accennato anch'io. Allora, ho letto su forum che il vecchio, quello con componenti classici, era buono, funzionava bene tutto. Quando hanno cominciato a fare le versioni BSX tipo il 48, hanno fatto di cotte ricrude. Ho letto gente che era avvelenata, persa dai problemi che gli ha dato questo apparato. Ma non è solo una versione in SMD, credo ne abbiano fatto più di una, come il 48 ogni tanto lo stanno cambiando, sempre SMD però numerose versioni, e dice che conveniva quando era con componenti classici, però dopo troppi problemi, poi è anche molto costoso da nuovo come apparato. Allora, posso aggiungere una cosa anche io? Ci mancherebbe. Allora, il discorso degli SMD non è detto che sia peggio, che non sia uno svantaggio, anzi, a livello di affidabilità forse è anche meglio, più pulito l'emissione e tutto, meno problemi. Il problema è che non ci puoi mettere le mani, il problema grave è quello, la gente dice la cagata perché non ci puoi lavorare, non puoi intervenire se si rompe qualcosa. Se lo devi tenere così come i nuovi digitali terrestri, le code. Prima c'erano un sacco di componentistica, adesso tutto SMD, non c'è niente, non vedi un filo, non vedi niente. Si rompe il cellulare, non lo ripari. Sì, a parte quello però, c'è gente che proprio ha avuto problemi ben più d'uno, con l'apparato 8001, però non più originale come una volta. C'è gente proprio che ha scritto, che ha sputato veleno anche per tentare di allinearlo, di metterlo a posto, però sempre per sentito quello che ho letto. Invece a Natalino gli ho detto, in alternativa al 3009, se vuole un baracchino affidabile però non omologato, tutti i CRT 6009, 7009, 9009 sono molto ben fatti, abbastanza affidabili. E come dire, il 6009, 5005, tutti uguali sono. L'avevano chiamato l'erede del Pluto. Ho detto va bene, andiamoci piano, però bene o male, una volta metti la LC buono, escono limpidi come questo. Di più ninja, io non ho avuto l'8001, né vecchio né SMD, non potrei dirlo, io quello ho letto, capito Natalia? Certo, se lo trovi con i componenti classici, poi dipende dal prezzo, io non so a quanto lo possano dare un apparecchio del genere. Infatti io stavo dicendo a Roberto a vedere a quanto gli allaccia. Guarda, se domani apre Tonino, non è detto che apra perché non stava tanto bene di salute, magari non vuole rischiare. Mi avvicino e ti posso garantire, a me me lo dà a prezzo ultimo, che siamo molto amici, gli ho fatto delle cortesie, lui mi ha fatto delle cortesie a me, quando mi serve qualcosa si tronca il collo. Gli faccio la portata, dico guarda, è come che sia per me, gli dico. E poi vediamo cosa ne fa. Naturalmente Natalia, se ce l'ha ancora, non te lo garantisco perché ne aveva uno di questi 8001. E ti posso garantire, detto da lui, che lui gli apparati, a parte che è competente, ne ha visto di tutti i colori, l'ha vantato tantissimo l'8001, ha detto è un grandissimo apparato, sia a livello di costruzione, parliamo di quelli vecchi, non sto parlando di nuovo, non lo conosco, a livello di modifiche, di fare delle operazioni, diciamo, aggiungere cose, era un ottimo apparato, molto meglio dell'Ara 48. Avanti Riccardo. Ehi, hey, ok Riccardo, buona carica, buon tutorial. Io non lo so se mi trattengo più di tanto, che ci sono già anche un po' in giornata, sia stamattina che stasera. Infatti c'ho un po' la voce pure raschiata. Ok, buon tutto, vai Natalino, poi Marco e Luca che saluta te a Riccardino. Ma ciao Riccardino, buon quereti, buon tutto. Ne approfitto per chiudere anch'io, ci sentiamo alle prossime, fammi sapere Robea lì. Ehi, ok, tanto il numero già ce l'ho il tuo, è sempre quello Natalino. Sì o no? Te l'ho detto, sì. Non ho sentito, no, ho sentito la portata, però non ho capito se hai detto sì o no. Vai Marco, per Riccardo e per Natalino. Ciao Natali, buon tutto, ci sentiamo presto. Ehi, ciao Natali, dai, sentiamo, buona serata, buon tutto, alle prossime. Ok, ciao Riccardo, idem con patate, buonasera, buon tutto. Comunque questo che c'è tu è spettacolare la radio Marco, veramente bella, poi come modifichi, quanto per l'acqua, quando attacco? Quando attacco, io c'ho un filtro buono, non ZG, cioè un filtro migliore dello ZG. Puliti, cioè dovrebbe essere 80 senza filtro, 70 col filtro, puliti, no, li perde un po' di potenza, però niente spuri, hai capito? Guarda la radio, te la faccio con continuità, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Addirittura ti alza anche la modulazione, tu sei 9.30 e passi a 9.40 abbondanti, da 9.30 abbondanti a 9.40 abbondanti e ti alza anche un po' la radio, lo sai. Eia, me l'hanno detto tutti, che alza leggermente la modulazione, naturalmente pilotato in basso, quindi 4 watt di ingresso circa, e seppure, se non sono 3.5. E così, poi il filtro per ovvie ragioni, che in caso è delicata la cosa. Ma non ho capito una cosa, l'apparato quanti watt ti dà effettivo? Vabbè, 4, ma ti sto parlando di wattmetri giocattolo, 4, dovrebbero essere 4, dai. E poi c'hai la stufetta vicino. Esatto, e all'uscita della stufetta, ne avevamo parlato, il filtro all'uscita della stufetta, perché il filtro deve filtrare sia la mondezza del baracchino ma sia quella del lineare. Inutile che io filtri solo quella del baracchino che già ha un filtro suo e poi lineare è nulla. Infatti se guardi lo schema della RM Italy del filtro, raccomandano di metterlo all'uscita lineare, cioè apparato lineare, filtro, antenna. Vabbè, diciamo, da di lì ci sarebbe da appellarsi. Dimmi una cosa, e che cos'è il lineare? RM Italy KL203, praticamente la versione RM Italy del B150, però il B150 quasi sempre riesce a saturare, mentre questo no, questo ha 4 MOSFET, ha un nome lunghissimo, MS1307. No, guarda, complimenti, non è capitato spesso di sentire radio attaccate, così pulite, senza nessun disturbo di niente, zero assoluto, perfetta. Guarda, aspetta che stacco, se no. Allora, io lo metto sempre per un eccesso di prudenza, il filtro, anche quando sono completamente liscio, per evitare, no? Vabbè. Aspetta, allora gli ultimi 747, quello chiamato booster 747, dentro praticamente la buccia era il 747, dentro c'era proprio la scheda marcata RM Italy KL203. Sì, no, è un'ottima modulazione. E quanti ampere ti assorbe quello lì? Almeno una quindicina ne assorbe. No, 10 massimo. Conta che lo sto pilotando in basso. Poi mi pare ti avevo parlato della storia, no? Gli dai 10 watt in ingresso, satura, mi ne dai 9, 8, 7, satura. Con 6 ne ho provato, con 5 già non satura, con 4 meno che mai, anzi l'aumenta pure la modulazione. Ma è regolabile l'apparato tuo la potenza, c'ha due potenze? No, né l'apparato né nella scarpetta. Qua purtroppo 3009 con la versione nuove non ha regolazione potenza. E ti dirò di più, che anche nelle versioni del 3009 non omologate o ex omologate, i watt li ho lasciati a 4, perché per pilotare in basso questa roba. è che è inutile uscire saturi, cioè non ha senso aumentare il segnale e dimezzare rendere la radio proprio una cosa risicata. Generalmente d'accordo, io quando vedo infatti queste modulazioni amplificate con le, cioè con, aiutate molte volte, il 90% sono ridicole, cioè è inutile che tu mi alzi il segnale e poi la radio la schiacci, ma sono quasi tutti, tu sei uno dei pochissimi che quando attacca è pulito, tranquillo, come niente fosse, addirittura la radio un peluzzino più forte. Eia, poi cosa volevo dire della... aspetta, allora la ZG aveva fatto il suo B153 che era lo stesso come B150 di aspetto ma con i MOSFET, di quello non ho sentito né voci di corridoio né prove, niente, non si sa niente se esce bene o male, infatti molti avevano preferito questo alias 747, la versione recente, peraltro il 747 mi pare che è uscito da catalogo dalla Midland, non si trova più né in vendita né in negozi online, forse Tonino ancora ne avrà qualcuno, ma mi pare che qualcuno era andato a chiedergli, gli aveva chiesto roba di una cifra sportiva 70-80 euro, e qui lo dico, qui lo nego. No, non lo so, non lo conosco. Io a parte non ne ho di amplificatore, me forse ne hanno regalato uno piccolino per le V che non so, sì ce l'ho ancora, nemmeno ricordavo, non l'ho mai usato, l'avevo dato a Claudio, l'avevo prestato a Claudio per la macchina, però quello me l'ha restituito. Poi ieri ho scoperto un'altra cosa, c'ho anche una direttiva per la 27, me l'ho anche dimenticato. Quello che mi ha dato Salvatore Maestrale, te lo ricordi? No, no. Allora, Salvatore Maestrale mi ha regalato un po' di roba, dai. Mi ha regalato la Mantova, anzi me la sono smontata io, mi ha detto vieni, metto la prendi, nuova, quasi fiammante, quasi che sta uscendo dal negozio, sono tutta sigillata bene, nastrata e conservata come emergenza. Poi mi ha dato una PKV che fa da 0,30, l'ho salita ieri, la devo piazzare, non me la ricordavo così grande, 9 metri di antenna, caricata eccetera, c'ha dei radialini da saranno 50 cm sotto e una carica laterale, costruita bene, tutte le fascette in acciaio inox, la bulloneria tutto inox, quella lì la volevo farla oggi ma non ne ho avuto voglia, metterla in un palo 2,5 metri di palo, dai, non ne devo mettere neanche alto per non controventarla. Poi è nata un'antenna frusta, non so manco cos'è, con una base magnetica, e poi in mezzo alla roba, guardato, c'era anche una direttiva, semidirettiva, dai, a 2 elementi. Tanta roba, dai. Poi aspetta, c'è un po' di fiatone, ho bevuto un po' troppo acqua, troppo rapidamente mi ha registrato, fiaccato, ho perso un po' il filo, dai. Aspetta, che è stato Giovanni, avanti Giovanni, in compagnia mia e di Marco, avanti. Ah, sì, l'ho detto in due soli, qui bracco. Diciamo Marco uguale, vero? Aspetta, nominativo si picca. Sì, non è da diamantone, è Marco Condor. Da Fitto Condor, sì, il nome è nuovo, almeno Condor non è nuovo, e i nomi io me li dimentico perché mi sono detto bracco, a Giovanni che ne sono tanti. A un certo punto questo si chiama confusione, io me lo dico. La mia età è meglio avere le cose chiare, i nomi magari un po' specifici, e uno si chiama Giovanni, magari visto che Giovanni viene più di uno, meglio che si metta un nominativo, no? Almeno lui la pensa, poi non lo so. Ti lancio il micro, Robè, ci vediamo domani mattina comunque, adesso rimango un altro po' qua in frequenza e poi vediamo. Oh, Roma, ma ce la fai domani a passare? Aspetta, se mi porta domani... Allora, Giovanni, quel microfono, se riesci a portarmelo prima delle 10, perché devo dare a Luca quelle connessioni lì, se riesci a passare in officina prima delle 10, vediamo come sono i colori dei fili. Vediamo. Una domanda, Luca, ma il microfono dell'MB40, proprio i colori sono standard per quello? Perché io ho i colori di un altro microfono autopuli, sono diversi. Ma perché non c'è il microfono originale? No, io ho le connessioni di un Intec autopuli, questo, l'MB40 cos'è? Intec il baracchino? Sì. Ma mi sa che te le posso dare, ce l'ho io da parte. Vabbè, in ogni caso domani me le faccio dare e poi vediamo. Allora Giovanni, domani passi prima delle 10 col microfono di quel baracchino che ti ho dato io, va bene? No, aspetta, no, allora aspetta, no. Allora, se il microfono è originale o okay, che? Perché sono diversi, eh? No, è originale il microfono. Quello con l'up down? Sì, quello con l'up down. Ah ok, allora va bene, senti Lus. Ascoltalo bene. Non è che questo domani tu lo rovini così mi attacca il tranno. No, faccio tutto in presenza, non devo rovinare niente. Io devo vedere i colori dei fili. Li scrivo in un pezzo di carta e gliele do a Luca e boh, finito tutto. E cosa con la roba tra l'altro? Quel Sommersant è un ottimo microfono, cerca di aggiustartelo. Magari forse riuscito a collegarlo ai baracchini, è solo che è difficilissimo e quindi conviene riportarlo com'era. Sai, l'attacco, i fili corrispondono, i colori corrispondono, quindi cerca di metterlo a posto. Ok, ti rilancio il micro. Ok, Luca, una domanda. Dimmi. Allora, l'MB40, il baracchino, è della Intec, che non mi ricordo. Eia. E allora, eventualmente, vabbè, me lo porta lui. Io ho il multico, Intec è multico, ma è sempre a 8 puli, con l'up down, eccetera, eccetera. Se no, male che vada, c'ho anche quello lì di coso. Se no, ho le connessioni scritte in un pezzo di carta, me le avevo segnate, per dire rosso, massa, coso, trasmissione. Però, domani me lo porta lui e facciamo tutto, dai, e poi te lo faccio avere. Ok, vai Marco. Sì, però aspetta Roberto, a me sono proprio quelli del Mobico, non so se sono uguali, eh. No, ti do quelli del Mobico, però ti sto dicendo, me lo porta domani, ma nella peggiore ipotesi, se non me lo porta domani, verifichiamo con quello dell'altro baracchino mio. Sì, poi devo fare una prova, da. Secondo te se riprende a funzionare. E se no manda pazienza, sappi le luci. Ehi, non c'è problema, vai avanti. Un attimino, messaggino, sto ascoltando. Ehi, vediamo se c'è qualcuno qua sul canale 10, attenzione, canale 10, che vuole entrare, avanti. Luda, Giovanni riprende tra tu la microfonia. Ti ho parlato sopra, avanti Giovanni. Adesso come mai non c'è Riccardino? No, che c'era Riccardino, è andato via adesso, è andato a mangiare, dice che forse rientra dopo. Forse, è forse appena è. Almeno senti una voce giovane, giovanile, ragazzi, da paura di divertire, da, diciamo se vogliamo. Comunque in compagnia di chi adesso che sei? C'è Luca e Marco, quello che stavi parlando prima, Marco Condor. Gli altri sono andati tutti via e anche io tra poco vado, che sono un po' stanco, dai. Ok, vai Luca per Giovanni. Eia, ciao Giovanni, buonasera. Ciao. Volevo vedere quanto arriva, Marco, quanto ti arriva Giovanni dalle tue parti? Prova Giovanni, premi la portante anche muta e poi inizia a parlare dopo, dai. Ecco, adesso 9 più 20. Adesso sto parlando. 9 più 20, dai, cercando, sì, qua è tutto decimillimetrico. E lui dovrebbe essere molto aperto verso di te, no? Sì, diciamo io sono un po' infossato rispetto al canopoleno, no, giusto, sono lì. Un po' infossato, dai, perché è tutto a scendere, poi viene il sole. Però bene o male il segnale già è forte, cioè. Cioè, ti spiego, qui 9 più 30 al fondo scala, qua non ho il 9 più 60, quindi un 9 più 20 è già un buon segnale qua su questo smitter, eh. Chi è che ti arriva forte di lì, più forte? Claudio credo, ma anche tu non scherzi, eh. Vediamo il segnale. Ora prova radio, 1, 2, 3 prova radio. Diciamo 9 più 30, conta che adesso c'ho anche una cosa che mi fa uno spinotto in più, no, uno spezzone in più che magari mi mangia qualche cosina. Aspetta, c'è qualcuno che chiama Roberto, avanti, chi chiama? Diciamo un po' più forte del primato, però un po' nasina la radio, segnale 9 più 10. Ma io preferisco la modulazione più normale, questa è più gnini, più telefonica, vecchio stampo e nasina. Un po' meglio, dai, meno nasina. Poco fa sembrava che fossi raffreddato col naso e narici chiuse, adesso un po' più naturale, dai. Si calza meglio questo qua. Ok, vediamo Giovanni, avanti a te il mic. Allora, quello che ho trattato adesso chi è? Tonio mi hai detto, così è. Antonio. Vabbè, Tonio, Antonio, cambia granché. Gli altri me lo sono dimenticati, se non mi avevo riaccorto. Ehi, figurati tu che sei grandicello rispetto a noi, anzi, noi ce ne dimentichiamo, ci dobbiamo preoccupare noi che siamo più giovani. Ehi, accianto, dai, se tanto trappolo non ci sarò neanche io, mi dovrò spostare. Ok, vediamo un po' se nel frattempo qualcuno vuole entrare, avanti, canale 10 che vuole entrare. Nuda, ok, riprendi tra l'altro Luca e poi fai girare per Marco. Chi c'è rimasto? Che sono un po' lì, un po' qua, un po' là. Chi c'è rimasto? Io, tu, Marco e Giovanni. Antonio c'ha la telefonata, poi boh, non credo ci sia nessun altro. Comunque ho passato tutto, Marco, dai, anche la tua registrazione così si... come si dice, fa tutto quello che deve fare. E poi se serve l'intestazione del bollettino, cioè vi ho detto tutto, anche l'indirizzo, va bene, l'indirizzo è semplice, Cagliari via Brenta, numero, vabbè, adesso non ce l'ho qua per spedire il tutto. E ricordati che una volta compilato il modulo, digli, lui se lo compila, se lo firma e appena è completamente compilato di farsi numerose fotocopie, perché tanto poi le perdi. Io per esempio ne ho messa una in macchina, me la sono plastificata, perché sennò con l'umidità residua dentro la macchina me le faceva gialle, tutte mollicce, me la sono plastificata da lasciare solo in macchina, e poi in casa ne tengo una normale di carta, e poi dirgli di fotocopiare la cedolina di quando manda la raccomandata a Cagliari, tante fotocopie, più ne fa meglio, e poi di farci le fotocopie della ricevuta di ritorno che gli arriverà pochi giorni dopo, anche lì con fotocopia a furia dura, tanto te le perdi, bene o male, almeno io me ne sono perse più di una. Eia, ma ascolta, quanto costa, perché plastificare un, per esempio c'ho la licenza d'ascolto, quanto costa plastificarla? Luca, non lo so, io da Lidl avevo preso la plastificatrice A4 a 15 euro e ti danno anche fogli A4, A5 e anche per i tesserini, quindi non ti so dire quanto costi un singolo, cioè ho comprato tutto assieme, no, era completo, plastificatrice economica A4 più carta da Lidl. Ma una miseria costa plastificarla, una miseria, quanto costerà un foglietto? Per plastificare una 4 a qualche centesimo, non so, però beh, non ne sai. No, no, costa un po' di più, diciamo dall'1,50 a 2 euro la plastificazione costa, poi te lo possiamo fare anche a 1 euro se vuoi, quello che anche a noi ti fa con la cifra lì ti chiede, a me molte volte vabbè, come si chiama, il cognato di mio cognato non mi va a sbagliare, però mediamente costa 1,50 a 2 euro. Ah, tipo tabacchino, vabbè, lui se la devi fare te lo faccio gratis, tutto. E poi io mi facevo la fotocopia del bollettino, anche lo sai, perché una volta me l'ero anche perso a metà anno. Fortunatamente però adesso le poste ti rilasciano tutto, ti ricordi, no? Ti danno i... già avete capito, non trattengono più il pezzo loro di carta. Scansionano direttamente il bollettino, ti rilasciano tutto. La macchina per plastificare costa, la sto guardando adesso su eBay, 167 euro. No, la Lido costava 15 euro, Luca. No, guarda, quando c'è l'offerta la devi trovare, 15 euro, poi vabbè, c'è quella A5, puoi fare anche cose più cani. A3, non A5. Plasticare, ma costa già sui 20 e tanti. Tu, se hai bisogno di plastificare, lo porti da me, te lo plastifico in un minuto, meno di un minuto ci metti. Non è quello il problema. Ah, poi, i fogli che compri da Lidl per la plastificatrice costano poco rispetto alle cartolerie, molto, molto, molto poco. Capo. No, me la compro, cosa? Me la compro, se la trovo, ma costa un bel qua. Ma com'è piccola, cos'è? Elettrico? A elettronico, sì, la tacchi da 220, premi il tasto, quando è calda si accende la spia verde, puoi inserire, devi mettere il foglio dentro questo foglio di plastica, con i bordi di tipo 2 mm da una parte, 2 dall'altra, lo devi centrare bene, lo metti dentro, se lo tira lui dentro ed esce plastificato. E per la macchina ho usato quella cosa, perché lasciare documentazione cartacea in macchina, bene o male, l'umidità da qualche parte entra, me la trovavo o ingiallita o ciò, capito? Per il caso, quando hai tempo, mandami la foto al modello, magari la trovo su internet. È tipo una stampatina piccolina, mi Luca, piccolina piccolina, c'è un rullo dentro che scalda, c'è una resistenza, la infili dentro il foglio con il coso di nylon sopra, con il coso di cielo, fa tiri, te lo scalda e te la incolla nel foglio. Tanto serve sempre, da. Sì, capito, mi sono classificato un me di roba, anche il band plan HF, VHF, no, con tutti i settori, lì puoi fare questo, lì puoi fare questo, lì in FM, lì in banda laterale, lì in CW doppio, perché ogni volta mi si rovinavano, ci trovavo o i cerchi tipo robe, tipo sotto bicchiere, o il gatto ci giocava, me li distruggeva. Sì, no, già è comodo, uno che lo utilizza per qualcosa non ci sono problemi, conviene comprarla anziché farti le cose, se la ripaghi con 10 classificazioni te la ripaghi alla grande. Ok, cosa volevo dire altro? Avanti Giovanni. Ho capito, no, alla linea capitano, perché capitano degli affari, leader e non stai dicendo, degli affari meravigliosi. Io pensavo che ho preso una quelle che si mette la carta vetrata sotto, come si chiama, adesso mi ricordo, vale. Comunque è smerigliatrice, roba del genere, no? Che a Bricoman costava 900 euro, uguale identica, l'ho presa la Lidl 24 euro, si può immaginare che differenza che c'è, no? E lì capito l'occasione, ogni tanto ho preso tante cose, compreso un saldatore, uno slittatore, tutto a un prezzo incredibile rispetto agli altri luoghi. E infatti ogni volta che è appena possibile, il lunedì e giovedì, ci passo sempre, perché l'occasione è la capitano spesso. Sì, sono il lunedì e il giovedì, infatti sono andato l'altro giorno, mi hanno detto che c'era il termometro a infrarossi, però deve essere già passato, lo stavano dando 19 euro e dalle altre parti costa 75 euro più IVA. Lo so, ma non c'è solo, no, ma c'è una roba molto importante, aspetta un attimo cos'era, che a me non mi serviva, ultimamente c'era, non mi viene in mente cosa c'era di molto importante, e che costava una fesseria, costava, non so, cosa c'è ancora, la macchina nella pressione, e caspita, costava, mi sembra, 12 o 13 euro, adesso va, non è di gran qualità, però attenzione, non è che facciamo paragoni con le macchine che si possono vendere, diciamo, in negozi specializzati, però funzionano. No, l'ho comprata io qualche anno fa, l'unico problema, no, la macchina è precisissima, però talmente precisa è super sensibile, basta che c'è un attimino di respiro e subito ti dà un'indicazione sballata, nel senso ti sale, perché è istantanea, non è come quelle a mercurio che sono meno sensibili, però sono precise, questa è molto più precisa di quella a mercurio, però basta che ti metti appena appena, fai un movimento, subito sale la pressione sanguigna, ti dà, infatti devi fare la media delle tre indicazioni, devi essere molto rilassato, se no ti dà dei valori completamente sballati, perché vedi, ti sale la pressione e tu vari quell'istante lì, dopo la rimisuri dopo due minuti ed è diversa, è troppo sensibile, è come quelle bilance digitali super precise che ci soffi e ti cambia la cosa, la pesata, mentre quelle ad ago, quelle vecchie, ma sono meno sensibili. Attenzione un attimino, io diciamo che per la pressione mia moglie ne ha preso una che costa 90 euro, è molto più precisa di quella presa alla linea, lo dico sinceramente, perché se devo fare, no, attenzione, poi respiri o non respiri, e quella che c'è mia moglie ti dà, diciamo, i dati giusti, hai capito? Non è importante che respiri o non respiri, e mentre quella della linea è appunto c'è i difetti che stai dicendo tu, e se ti muovi o roba del genere non ti dà le indicazioni come devono essere. No, non è questione precisa, la precisione è più precisa di quella a mercurio, parliamo in condizioni ideali di utilizzo, perché c'è una precisione molto superiore a quella a mercurio, perché la mercurio c'è, funziona in base alla pressione, c'è la cosa del mercurio che sale, c'è una scala graduata, diciamo è abbastanza precisa, però è meno interferibile dagli agenti esterni, di lì se ti viene un colpo di tosse è cambiato immediatamente il valore della pressione, e quello te lo legge, e per dire in quell'istante di lì tu ti misuri la pressione e ce l'hai 150, invece in realtà 100 per fare un esempio, è troppo sensibile. Infatti i cardiologi, il cognato di mio fratello che è cardiologo, lui usa solo quelle analogiche a mercurio, perché sono meno influenzabili dagli agenti esterni. Quella lì basta che ti muovi, che ti giri un attimino perché hai visto un'immagine, una cosa che ti ha fatto un attimino di coso, di ansia o di coso, ti cambia completamente il valore. Infatti te lo consigliano anche loro, fai tre letture, fai una lettura adesso, dopo due minuti un'altra lettura e poi dopo altri due minuti un'altra terza lettura, così dai una credibilità, se no se ti fidi dalla prima lettura ti spaventi. Lo so, vabbè, fai girare, allora, mi hai detto che c'è, diciamo che c'è Tonio, Luca e Marco, non so chi tocca il microfono. C'è Antonio, non so se si è allontanato, altro ci sei, Luca ci sei, non vè, Marco ci sei, mi sa se ne sono andati tutti, faccio l'ultimo passaggio, con te Giovanni e vado via anche io, dai che sono un po' stanco. Come dire, questo è quello che non è la roba, diciamo,